versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, qui in diretta dagli studi di Roma per una volta di Radio 24, 16.35 e 2 secondi, 18 di febbraio, martedì. Il tema della puntata, per consentire a chi volesse all'800 24 00 24 di chiamarci e dire la propria opinione. Gli osservatori stranieri nei confronti della nascita del governo Renzi, sono in corso le consultazioni per le piccole formazioni politiche questo pomeriggio, all'inizio sono rimasti un po' a guardare, come gli italiani nei sondaggi del resto, che non erano entusiasti per la staffetta nei confronti di Letta con il nuovo premier Renzi. Sono stati a guardare anche perché poi alla fine Matteo Renzi si è preceduto all'estero da questa fama di essere intraprendente, energico, disinvolto, duro, rapido. Però nella realtà uno dei suoi handicap è che all'estero non lo conoscono per niente. Non lo conoscono né a Berlino, né a Parigi, né a Londra, né al Fondo Monetario, né a Washington. Mentre Letta e Monti, con tutti i loro difetti, erano ben accreditati nelle sedi internazionali. E allora la domanda che ci poniamo oggi ce l'ha consegnata in realtà mezz'ora fa Noria Rubini, uno dei più noti ascoltati economisti sull'interpretazione della crisi in questi anni, eccetera eccetera. Noria Rubini dalla New York University ha fatto un tweet e si è chiesto: sarà Matteo Renzi il Tony Blair o il Bill Clinton della sinistra riformatrice che apre al mercato italiana? Domanda. Allora, io a questa domanda sono sincero, la risposta è non lo so, perché io prima dei fatti non do credenziali in bianco, e mi sembra che come giornalista bisogna ragionare così. Però è un fatto che Tony Blair ha twittato a favore di Renzi come una specie di benedizione di questa svolta riformista, ancora tutta da vedere, e proprio poi pochi minuti fa Ed Miliband, l'attuale capo del New Labour, che non è molto blairista ma più di sinistra, ha twittato a propria volta dicendo: no, non è un New Labour, cioè blairista, ma è un New Labour, come Ed Miliband in Gran Bretagna. Quindi insomma, diciamo che gli osservatori stranieri stanno a vedere, e però c'è chi scommette sulla capacità di rompere. Il Financial Times ieri scriveva: ma in realtà gli italiani hanno ragione a essere un pochino, per così dire, distaccati, perché qui i dati di fondo sono di un paese che va giù da 20 anni, prima dell'euro, e ci sarebbe bisogno di cose così profonde per cui prima i fatti e poi gli entusiasmi. Ma la domanda che ci facciamo è: sarà davvero secondo voi il Blair e il Clinton italiano? Bah, però siccome noi non lo sappiamo, chiediamo il punto di vista ad alcuni colleghi della stampa estera per vedere dal loro punto di vista e soprattutto nel loro paese che cosa colgono intorno a questa svolta, svoltina, svoltona italiana. Ecco, il primo che è con noi, che io ringrazio di essere con noi oggi pomeriggio, è Richard Newbury, che è corrispondente della stampa da Cambridge e che personalmente conosco e stimo da molti anni. Grazie Richard di essere con noi oggi pomeriggio. Richard Newbury è collegato? No, non mi pare che sia collegato perché non sento nulla. Ecco, siccome Richard Newbury non è collegato, a questo punto... Pronto? No. Allora, vi dicevo, mi dicono nel frattempo se il collegamento si ripristina. Sì, no. Lo richiamiamo perché è caduta la linea. Nel frattempo, uno dei punti esattamente sul versante europeo internazionale su cui tutti sono in attesa di capire qual è il programma di Matteo Renzi riguarda proprio l'Europa. Sapete benissimo che il vincolo europeo del 3% è una cosa che gli italiani oramai crescentemente mal sopportano, lo identificano come una specie di pastoia, di basto messo sulle nostre spalle dai cattivi tedeschi. Lo rispetterà o meno? L'Unione Europea era in attesa ieri di sapere, per mezzo punto di PIL, le misure aggiuntive per contenere il deficit, visto che avevano contestato la legge di stabilità di Letta. Quale sarà il primo atto di Matteo Renzi? Quello di dire: io vi porto queste riforme e sforo il 3%? Oppure no? E soprattutto, il governo Renzi farà come i due predecessori, che hanno bellamente ignorato che dall'inizio del 2015 entra in vigore il Fiscal Compact, che impone ogni anno una riduzione di un ventesimo di ciò che del debito pubblico eccede il tetto del 60%, noi siamo al 133%, quindi capirete che dobbiamo abbatterlo di un bel po' ogni anno. Sta di fatto che i governi precedenti, anche la legge di stabilità approvata dal Parlamento poche settimane fa e che pure comprende l'orizzonte temporale 2015-2016 in cui entra in vigore il Fiscal Compact, lì non ci troverete nulla. E la domanda è se a questo punto Renzi farà lo stesso, non potrà fare lo stesso. Come lo affronterà quel problema? Con più privatizzazioni? No, perché politicamente assolutamente oggi destra e sinistra sono contrari. Ci vorrebbe molta più crescita. Ma come si fa a fare più crescita in così pochi mesi? Chiederà all'Europa di non rispettarlo? Sono tutti punti molto, molto, molto, molto importanti. Però nel frattempo, se non mi dicono dalla regia, se noi abbiamo restituito il collegamento, chiamatemi allora Philippe Ridé, il collega di Le Monde all'Italia, con cui dovevamo fare la seconda parte della trasmissione. Mi dispiace rinunciare a Richard Newbury, perché il coté britannico era divertente, visto che qua si parla del Tony Blair oppure no. In Gran Bretagna, devo dirvi la verità, come lettore dei giornali britannici non mi pare che ci sia una grande attenzione alla faccenda di Renzi. Sono molto presi dall'arroventamento della tensione politica che è in corso per il referendum, che sarà solo il prossimo autunno, della Scozia per l'indipendenza. Oggi l'ex primo ministro Gordon Brown ci è andato giù con la zappa e ha detto: cari scozzesi, se voi votate sì al referendum, sappiate che voi non avrete la pensione, perché noi non ve la paghiamo, che è un tono, per così dire, un po' brutale. Tenete conto che in quest'anno c'è anche il referendum in Catalogna, a cui la Spagna è contraria, e così via. Quindi questo è uno dei temi, il frazionamento degli stati nazionali anche di fronte alla disciplina europea, ma soprattutto di fronte al fatto che chi dà più tasse agli stati centrali vuole riprendersi l'indipendenza. Era un tema a cui caro finché la Lega era la Lega, adesso è sparito e abbiamo questo finto federalismo che ha solo aumentato i costi. Ecco, si è aggiunto con noi adesso su questo tema, come ci vedono dall'estero, Philippe Ridé, che è corrispondente di Le Monde dall'Italia. Buon pomeriggio, grazie Philippe di essere con noi. Buongiorno. Allora, da Parigi, come si guarda a questo incarico a Renzi? È conosciuto Renzi? È stimato dalla sinistra? Quali pezzi della sinistra? In realtà i francesi ci hanno altro per la testa. Insomma, raccontaci un po'. Allora, Renzi, per raccontarlo, io ho cercato di paragonarlo con personalità politici francesi per dare qualche punti di riferimento, ma ho dovuto prendere almeno tre personaggi per spiegare questo Renzi italiano, quindi l'ho paragonato con il leader francese del centro, che si chiama François Bayrou, hanno le stesse origini nel catolicismo sociale, diciamo. Poi l'ho paragonato con la Ségolène Royal del 2007, anche lei è esponente di sinistra, ma non sostenuto dall'apparato della sinistra, ma che è riuscito a farsi candidare alla testa del Partito Socialista. E adesso lo paragono più volentieri con Sarkozy, perché trovo che dimostra con la sua strategia per incarnare la rottura all'interno del suo proprio campo un po' ciò che ha fatto Sarkozy prima di diventare Presidente della Repubblica. Quindi ho dovuto trovare tre persone francesi per spiegare questo italiano che... Ai lettori di Le Monde, però scusa se ti fa... di Le Monde, ma è che lo conoscono comunque, sì. Io ho appena trovato che Renzi, ne ho parlato già da 64 volte, quindi ho scritto parecchio, 64 per così volte dire. Il suo nome, ho scritto un articolo su di lui, quindi la gente che vuole sapere chi è Renzi penso che può abbia trovare gli strumenti. Però ti faccio notare ai miei occhi una singolarità, cioè hai dovuto ricorrere a tre personalità politiche francesi, delle quali la prima, François Bayrou, è un centrista. Cioè, e anche ovviamente con la legge elettorale che c'è in Francia e con la gara per le presidenziali, quindi non ha mai potuto prendere, essendo un centrista coerente secondo me, fino al secondo posto. Io ho grande stima di Bayrou, però ovviamente con quelle regole non ce la fa. Poi dall'altra parte hai usato sì una candidata alle presidenziali per i socialisti, e dall'altra parte, diciamo, il leader che ha fondato poi l'UMP, che ha fatto tanti anni di lotta contro la sciracchia per emergere, però è il capo dell'altra parte. Politicamente non sono segnali un po' troppo contrastanti per far capire, cioè la realtà è che neanche tu hai capito bene che cosa bisogna aspettarsi. No, ma diciamo che Renzi è una sintesi di tutto questo, quindi è difficile di postare Renzi o a destra o a sinistra, perché a secondo dei giorni può trovarsi a sinistra e l'indomani piuttosto sulla destra o e per come centro, conosci l'Italia quindi... Per come conosci l'Italia tu in questi anni, secondo te questa è una caratteristica positiva che gli consente una trasversalità che mina un bel po' di consenso di Berlusconi anche dall'altra parte, oppure è una cosa per cui un pezzo importante magari della sinistra eccetera eccetera lo guardano con distacco e anche con diffidenza? Io trovo che è piuttosto una tu per lui questo... fatto di essere così poco schierato, diciamo, è piuttosto un vantaggio, perché l'Italia esce da vent'anni di contrasto isterico non tra destra e sinistra, ma tra berlusconisti e anti-berlusconisti. Quindi trovo che per il momento è piuttosto un vantaggio di trovarsi di fronte a qualcuno che è un po' meno isterico. Già questo mi fa piacere. Poi sapere se questa sintesi può riuscire a attrarre più di 50% di persone o dare la spinta che ci vuole in Italia per fare le riforme è un po' presto per dirlo, ma trovo che è un bel momento per la politica comunque. La versione di Oscar. Eccoci qua, tornati in diretta, 16:46, 35 secondi. Alcuni di voi ci mandano dei messaggi tipo: Renzi farà una mega patrimoniale. Altri sono più cattivelli: se Renzi è il Clinton italiano, i giornali saranno subito, si porranno la domanda chi fa Monica Lewinsky, eccetera, eccetera, eccetera. Detto tutto questo, abbiamo sentito come Philippe Ridel, corrispondente di Le Monde all'Italia, abbia dovuto, per spiegare, ma presentando già da mesi ai suoi lettori a Parigi e in Francia la figura di Matteo Renzi, il presidente del Consiglio incaricato, utilizzare però da una parte un centrista, François Barou, dall'altra una candidata alle presidenziali socialista come Ségolène Royal e dall'altra ancora Sarkozy. E quindi insomma c'è una trasversalità che da questo punto di vista però dice abbassa l'isterismo che per vent'anni ha contraddistinto la scena politica italiana, berlusconisti contro anti-berlusconisti. Sentiamo Richard Newbold, il corrispondente della Stampa da Cambridge. Cosa ne pensi, Richard, di questo endorsement che ha fatto Tony Blair e del fatto che Ed Miliband stamattina l'ha corretto dicendo non è un New Labour come te ma è un New Labour come me, più a sinistra? Ma prima Ed Miliband non, ovviamente non è d'accordo perché non è New Labour, esatto. Ma è che il fatto che Tony Blair ha riconosciuto qualcosa di suo stesso è dovuto anche al fatto che Renzi ha studiato molto bene il modo. Effettivamente quello che lei ha detto di per esempio del suo predecessore è semplicemente che tutti la ragione, un uomo delle istituzioni, qui c'è da cambiare nel senso che gli attuali partiti non rappresentano come non rappresentavano anche il tempo di quando Thatcher ha preso potere, anche quando Tony Blair, anche Cameron, un attuale ritratto del voto, effettivamente, e quanto diviso. Si deve essere tutti e due, si vince in centro rubando dall'altra parte. E questa è la lezione di Clinton, ma anche di Blair e della politica in genere. Berlusconi ha capito benissimo per vent'anni che, come lui ha detto quando scendeva in campo, che mi piace l'Italia com'è. E veramente vent'anni ha provato a rimanere com'è, ma non è così l'Italia, e secondo me Renzi ha capito questo. E si deve offrire, perché non sono più gli italiani di vent'anni fa, neanche, e neanche nessun partito, perché lì sono un po' sinistra, un po' di destra, come detto, ma infatti la fine di sinistra e destra ovunque, perché siamo tutti borghesi, e quindi si vince con una maggioranza di borghesi, non con un classe operaio, un classe di dirigenti eccetera. Però Richard, tu sai benissimo siccome la differenza che c'è, scusa, aspetta Richard, siccome conosci bene l'Italia sai bene che in questi anni l'Italia, al di là del fatto che certo non è che esiste più in termini maggioritari sugli occupati la vecchia classe operaia, però il problema del nostro paese, a differenza della ripresa che è nato nel Regno Unito, è che qui abbiamo perso in questi anni una percentuale elevatissima di PIL, produzione industriale, un quarto della produzione industriale dal 2007, il 27% di investimenti, il reddito disponibile delle famiglie è tornato indietro a quello di quasi 20 anni fa. Quindi qui c'è un problema di un paese in cui 7 milioni di italiani sono a rischio di povertà rispetto al reddito mediano dell'Istat. Oggi, adesso ci sono 60.000 persone in piazza qui a Roma, a Piazza del Popolo, artigiani e commercianti che per la prima volta piacciono i forconi, ma queste sono tutte le organizzazioni, e il presidente di Confartigianato ha lanciato un hashtag che a me convince molto, dice: altro che Matteo stai sereno, Matteo stai preoccupato per come è la condizione economica di questo paese. Ecco, in questo paese così piegato, per così dire, secondo te il rompere i partiti e tentare di avere una constituency che non è la vecchia sinistra, quindi non faccio la patrimoniale, eppure molti PD gli chiedono di fare la patrimoniale, ma tento di fare spesa e tasse, qualcosa che Berlusconi poi non ha mai fatto quando ha vinto e lo prometteva e non lo faceva, secondo te Richard Newbury può essere una risposta per questa Italia così impoverita? Sono le risposte che c'è, si deve liberalizzare la capacità di... Qui a Londra sono forse 400.000 giovani italiani bravi che lavorano, che arrivano due aerei pieni di italiani migliori d'Italia ogni giorno, semplicemente perché se sono capaci possono prendere lavoro. Perché? E che finché si capisce, la grande differenza di Blair ma anche della Thatcher è di vedere che la popolazione anche in Italia ci vedono come... non come produttore, come minatore, come operai, ma si vedono come consumatore. E si deve semplicemente non avere... il potere del sindacato deve essere uguale alla percentuale di persone che sono membri di sindacati, che sono molto meno dall'inizio di questa crisi. E quindi, e ovviamente il loro interesse. Poi anche effettivamente, come anche in Francia, il Partito Socialista, il partito di funzionari di Stato e insegnante, e che sono due parti il problema rimane lì, e diciamo, non siamo più questa società. Esatto, tu dici, quindi da questo punto di vista dice ci vuole una cosa dinamica, creativa, forte. L'Italia è splendida, ma semplicemente è una situazione in cui, per esempio, al giornale italiano, se non ci licenzi le persone fino a 67 anni, non abbiamo quasi nessuno al di sotto dei 40 anni che fa giornalista. Esattamente. No. Ok, allora tu dici il dinamismo in realtà ci vuole, e confidi che Renzi lo abbia capito, un po' come l'ha fatto Thatcher a destra quando fu il suo turno, e poi Blair quando gli è succeduto, cambiando anche lo statuto, il fondamento, insomma, del vecchio Labour. Sentiamo rapidissimamente alcuni nostri ascoltatori. Enzo, che ci chiama da Milano. Prego, Enzo. Sì, buongiorno Oscar, saluto lei e tutti gli ascoltatori. Ma io volevo semplicemente dire che Renzi, anche per me, è un punto interrogativo, ma immagino soprattutto per l'Europa, oltre che per l'Italia. Però questa è l'ultima chance, non c'è altro. Secco e chiaro, e questo è anche un fatto innegabile, perché poi gli elicotteri della Troica tornano, non è che noi possiamo sperare che, siccome c'è una fuga in atto della finanza dei paesi emergenti adesso per ragioni internazionali, davvero lo spread resta sotto quota 200, perché nel frattempo noi non abbiamo migliorato strutturalmente il debito, la produttività soprattutto, e quindi siamo messi molto male. Condivido molto questa osservazione di Enzo da Milano. Sentiamo però anche Bruno, che ci chiama da Napoli. Prego Bruno. Bruno, ci sei? Bruno, non ci sei. Mi sembra che non ci sei. Allora, in questo caso lo saluto comunque, e andiamo da Philippe Ridé. Dal punto di vista, la Francia è un paese che a propria volta non se la farei cambio, naturalmente, non sto paragonando, però insomma dal punto di vista congiunturale se la passa malino, ecco, nel senso che ha evitato per un pelo, dico il segno meno, alla fine del 2013 l'economia. Hollande ha dovuto cambiare marcia rispetto a quello che aveva detto alle elezioni, promettere 50 miliardi di tagli di spesa in tre anni e 30 miliardi di sgravi fiscali. Dal punto di vista del dibattito politico che c'è in Francia, ha un senso che Romano Prodi dica, per esempio, a Renzi: alleati con la Francia e la Spagna e cambiamo la politica europea? Oppure, come secondo me è molto improbabile vedere questo asse Renzi-Hollande? Io anch'io non ci credo, perché c'è un proverbio, diciamo, francese, che dice: quando mi guarda a me stesso sono molto inquieto, ma quando mi paragono mi sento meglio. Quindi quando la Francia si paragona con l'Italia si sento meglio, quando si paragona con la Germania si sento peggio, ma comunque la Francia perché fa parte del suo DNA, del suo orgoglio, diciamo, ha sempre avuto questa politica di vicinanza con la Germania, anche per ragioni storiche. Quindi non penso che Hollande farà mai un asso con paesi mediterraneo, è proprio una questione d'orgoglio prima di essere una questione politica o economica. Io sono molto d'accordo con te, e mi stupisce che Romano Prodi, che però non è un conoscitore dell'Europa eccetera, invece continui a ripetere questa cosa. Richard Newbury invece da Londra tutto sommato si guarda l'Italia con distacco, poi visto che il vostro dibattito è se separarsi o meno, se la Scozia si separa o meno dal Regno Unito, tiene la sterlina oppure no, cioè le cose italiane sono molto distanti o no? No, gli inglesi hanno sempre per centinaia di anni molto molto tempo una posizione molto a favore dell'Italia, anche vediamo a livello di Europa con alleato contro l'azionista di 35%, cioè la Germania, e affinché che la Germania sta a dividere e a conquistare, e si deve pensare in modo diverso. Ci vuole non solo la Ferrari ma anche Mercedes e viceversa, ma non immagino mai che uno che compra un Mercedes compra anche una Ferrari, e non si deve, anche si deve essere guidato in modo diverso. Va bene, quindi io ringrazio Richard Newbury e Filippo Decca, come capirete siamo ancora tutti in attesa, per così dire, però io non vedo grandi assi per ribaltare il tavolo tedesco, per così dire, come molti spingono, chiedono a Renzi di fare. Mi auguro davvero che sappia capire questo Premier che bisogna dare risposte con meno spese e meno tasse e non con patrimonialone, però la verità è che lo scopriremo solo vivendo. Continuate su Radio 24 e appuntamento con me a domani.